andavano bene, perciò vanno tutti gli spediti indietro, perché di contrasto non so cosa, non lo stava spiegando così che mi viene. Lui lavora in ospedale, lui è il braccio destro del primario del suo reparto, i tamponi li ha fatti, però dopo che l'aveva già passato da un bel po', secondo i suoi calcoli, due tamponi negativi a ripetere di due giorni ed è pulito. Dovrebbe fare il sierologico. Se fa il sierologico positivo, io posso fare il tampone, ma anche io il siero per riuscire a capire come è andato. Bel casino, vabbè. Dai ragazzi, io vi saluto, ciao Antonello, ciao Fabio, chiunque sia in ascolto qua su 10, mi spostano il salone qua, si stanno già mettendo a letto, se no disturbo. Ci sentiamo domani, buonanotte a tutti, ciao anche a Tino, buonanotte, riprendi Antonello. Sì, ok, ciao, comunque guarda, quando si muove si sta male, l'hanno messa lì in medicina, all'ospedale, te lo racconto, è rimasta quasi un mese. Dopodiché è arrivata questa tipo qui che abbiamo messo questo cazzo di maschera grande, eccetera, ci facciamo per aprire, come si chiama, i polmoni. Immediatamente dopo una settimana l'hanno messa in quarantena, hai capito? L'hanno messa in una stanza da sola come un cane, non ho detto niente. Da lì l'hanno trasferita a San Pietro. Quando la voglio trovarla mi ha detto ci si mette i guanti, si mette questa vestaglia verde, mi ha detto tutta rettinata, sembrava una cosa per le zanzare, sembrava quasi un mese, quindi figurati tu. Quindi lì all'ospedale sono stati dei bastardi, non ho detto niente a nessuno, sono stati zitti. In pratica io ero in mezzo al coronavirus senza sapere niente, hai capito? Quindi mi trovavo a Simona e ci andavo tutti i giorni. Quando sono andato lì a San Pietro mi ha detto non appoggi le buste lì, quando prima di entrare si deve lì igienizzare, il caso vuoi mettermi prima questo cazzo di gel, dopodiché mettimi i guanti e poi andavo a trovare, non potevo neanche toccare a Simona, nulla, per niente, devo stare a un metro di distanza, quindi figurati tu. Questa roba qui c'è molto, ma molto prima di dicembre, e le cose loro sono state zitti e so se le sapevano, hai capito? Bah, mica chiuso una cosa, sto misurando, mi mancava mezzo volt e mi sono attaccato la massa con un diodo. Figurati tu. Infatti quando mi hanno... prima di entrare Simona qua, dice se faccia la domanda all'ossigeno, mi ha detto, l'ossigeno è troverissimo, ho fatto in culo, scusi, gli ho risposto che ho detto, che io 60 kg di ossigeno a casa non vorrei mettere, ho detto, ma sta scherzando, io ho detto. Quando pensavo che passano lì, che c'è l'accendino, ho detto, 60 kg di ossigeno, a fianco al letto di notte, non saranno. Ho preso, meno male non avevo nessun bisogno. Ho chiamato immediatamente il coso, ho detto portati via tutto, non voglio vedere nulla, ho detto questo bombone, sia di quello grande di quello piccolo. E vabbè, ma ora respira bene Simona. Sì, grazie a Dio, sì, già respira bene, ma prima a casa faceva accetti così, ci uscivano dal petto. Cattavo, verde, bianco, come era comunque, pieno. Insomma, non era proprio al 100%, per niente. Vabbè, l'importante è che sia bene adesso, che sia meglio, che si riprenda piano piano, che riprenda a vivere in maniera recente. Cioè, praticamente Simona, da quando è che non esce di casa? Sì, è allora che non esce di casa, sono almeno 2 anni che non tocca, non esce di casa, prima rimaneva qui, non gli piaceva uscire, fumava e basta, non facevo altro, capito? Ci uscivo ero io tutti i giorni, mattina e sera, e così faccio adesso, già l'hai visto. Quando fa la spesa, sono a contatto con le persone, eccetera, eccetera, grazie a Dio. sto bene, influenza nulla, la verità, niente, non ho più avuto nulla. Come l'ho avuta, per dire, l'anno scorso, adesso niente, proprio tranquillo. Prima di essere ricoverata lì, figurati. Mica domani quasi quasi agganciano una birra e ti vengo a trovare, giusto per vedere un attimino il bambino, Giovanna, eccetera, che insomma ci vuole, che poi che figata questa cosa del bambino è una figata, io sono troppo contento. Giovanna l'ho vista proprio col cuore a mille, proprio felice, che bella cosa. Giovanna, siamo usciti stasera assieme, facciamo un giro, ho detto un attimino allo spì, poi mi sono dimenticato, ho detto la pasta cazzo di comprare. E quindi abbiamo fatto un giro, prima la Cobec, poi siamo passati dallo SPI in 5 minuti e siamo saliti con passeggino, il bambino, hai capito? Ci siamo divertiti, poi il bambino è entrato a casa, poi Alessia, Mirko, Daniele sono scesi giù e si sono giocano parecchio, Daniele gioca parecchio con cosa, con Giulio, la verità, impazzisce, guarda. E è contento, l'ho visto tutto felice, come sono arrivati, stava venendo con i pattini che gli si era di abbracciarmi, è troppo affettuoso, Daniele è troppo affettuoso. però aveva la mascherina, è venuto verso di me, poi è frenato, poi ha fatto il giro, si è messo la ringhiera, insomma, così, belli. Hai visto? Vedo che cosa grande che c'è a casa. Sì, già lo so, ho visto, ma un sacco di gente non usa più mascherina, cosa cazzo. Mi ha visto diciamo la stasera, è bello! Mi ha baciato senza mascherina, sono troncato, non mi fregava niente, sia lì sia la sorella. Quindi figurati. Cioè, se li pigliati quella cosa, la pigliami. Se vai all'ospedale te la pigli per forza. Il discorso è quello lì. In ospedale non si può più, non è più sicuro l'ospedale. La verità, perché c'è un sacco di gente che arriva lì, magari per un'altra sintomatologia, e poi te lo trovi il caso positivo al Covid-19. E magari i parenti non se ne sono neanche accorti. Capito? Il discorso è quello lì. Come è successo ieri. L'ho visto su canale 19, figurati tu, ma ti pare cazzo, è già successo una volta, cazzo, su questa succede, questa è la seconda, ma che cazzo di ospedale ci abbiamo? A un certo punto dove cazzo andiamo? E dove ci andiamo, cazzo, facendo ricoverare? Lo so, però ho guidato il punto, è da lì che è partito, capito? Proprio da lì che è partito. No, non ho detto niente, addirittura mio amico sì, proprio lo stesso, ha fatto i tamponi, il paziente che ha diffuso tutto, lui già aveva lui, perciò l'ha controllato, visitato, gli ha contato, capito? L'ha visitato, mi sembra, 3 volte in una settimana, qualcosa del genere, perché aveva dei problemi urologici, oltre che dei problemi cardiaci, che poi alla fine tutto si lega, gli accumuli, i liquidi in alcune parti vengono drenati, passano per la vescica, non sei abilitato a muoverti in una certa maniera, e perciò nascondo tanti di cose, mi stava spiegando lui. E allora niente, lui subito in allarme per questa cosa qua, molti suoi colleghi erano positivi, sono rimasti a casa in quarantena, poi sono ritornati al lavoro, e con il secondo tampone erano puliti. Però, cioè, non si può andare avanti così, cioè bisogna togliere questa cazzo di virus e basta, ci deve poter muovere da questi problemi, se le persone seguono le regole, non fanno cazzate, questa cosa si ferma, sennò poi ti vedremo così all'infinito, poi chissà il vaccino che arriva, non funzionerà per questo virus, perché in effetti può essere modificato, perché questi virus mutano, no? adesso dice che è più leggero, attacca di meno, forse sparisce col caldo ma ritorna col freddo, un magazzino, cioè non si può più vivere così. O la gente si mette in testa che le cose vanno fatte in una certa maniera, o chi comanda fa fare le cose in un certo modo, oppure siamo destinati a trascinarci questa cosa, non vivere, non lavorare e morire capace. Sì, vabbè, a parte quello, ci stanno facendo la maggiore cervello più che altro. Adesso, potevano vedere gli alieni, cazzo, forse era meglio, guarda. Stanno arrivando gli alieni, ci curano, una cosa del genere, non c'è problema di niente, ci danno una medicina loro, potevano adesso vedere gli alieni, cazzo. Avevo sentito solamente gli alieni, no? Tutti i giorni, sempre la stessa prassi, cazzo, guarda. Stanno facendo, cazzo, il lavaggio c'è quello delle persone. Ma le persone a un certo punto non escono più di casa, o si suicidano, o cosa, hai capito? Arriveremo a quello, perché cazzo ne abbiamo tutti quelli, il canale Italia 1, rete 4, canale 5, Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai 7, tutti queste coglionate non senti, cazzo, no, fa un culo, basta. Ne abbiamo i coglioni in terra, ne abbiamo veramente. Tutti i minori sono tutti contagiati, fa il culo, basta tenere lì, a posto di fare arrivare di questo col campo e col puma e cose del genere, fargli trasloccare come il Duido, che più scemo di Berlusconi, cazzo, dice i milanesi tutti, li mettiamo fuoco, ha detto, cazzo, qui non ci devono neanche stare, non le faccio entrare. Perché non c'è stata una intelligenza, già all'inizio, cioè, non hanno avuto intelligenza, capito? Non hanno avuto intelligenza, c'è poco da fare. Non sono stati sul pezzo, non ci hanno creduto, hanno detto un sacco di minchiate, la comunità scientifica neanche loro ne hanno capito più di tanto, uno dice una cosa e uno dice l'altra, non si capisce. Io so che mi viene malissimo a lavorare, ho fatto un intervento quando? Ieri ho l'intervento prima di vederci con una persona fidatissima, perché se non era una persona fidatissima non ci sarei andato. Quando sono entrato a casa sua mi ha detto aspetta, togliti le scarpe per favore, ok, dico che portare il virus dentro, certo c'è ragione, lo vuoi un po' di gel? Sì, io sono arrivato che avevo la mascherina e i guanti, un po' di gel ce l'aveva lì in mano, me l'ha dato, mi sono disinfettato e tutto, ho fatto il lavoro cercando di non toccare nulla comunque, non ci siamo presi il solito caffè che mi fa quando vado a casa sua a fare i lavori, e niente, siamo andati a chiacchierare a 2 metri di distanza per qualche minuto, e ci siamo salutati ciao ciao, ho chiuso io la porta, capito? Così, se tutti facessero così, se tutti avessero fatto così, già all'inizio per ogni cosa, ora saremmo liberi, però siccome viviamo in un mondo di stronzi... Scienziati sono stronzi, non ho mai capito un cazzo di questa roba qua. Dicono un sacco di fesserie, il discorso è quello. Gli scienziati sono veramente stronzi, non dicono un cazzo, non sanno niente, non c'è nessuna, non c'è nulla, hai capito? Però dove non c'è niente, come è arrivato se ne va, il discorso è quello lì. Poi se l'hanno fatto lì in Cina e se lo sono fatto procurare, quelli sono... Spero che gli serva di lezione a un certo punto, capito? A parecchi agenti, gli americani, i cinesi, i russi, cose del genere. Sanno cosa vuol dire a un certo punto fare una cosa del genere, hai capito? E mandarlo in giro. Almeno lo sanno. Così imparano. E vabbè, riesce a vedere che ore sono. Antone, le donne e mezzo sono fuori di più di un'ora dallo spostamento QTH, adesso vado a casa mia. E niente, ascolta, ma che ti chiamo domani per non disturbarti, dimmi un numero. Chiama il professore, dice mezzo e 11, mi chiama. Tanto già sono sveglio a quell'ora, non ti preoccupare. Sì, via, va bene, la lista che ti chiama questo e quello, ci mettiamo d'accordo, ci vediamo domani mattina, o ci vediamo domani sera, che ricambio la birretta per i bambini, là, che non è così male, che con la televisione si può fare tutto, vederli ma non toccarli. C'è il suo aria, sto pensando a quando li prenderò a trovare. Sì, per quello già non ti preoccupare, basta ci facciamo un giro al centro storico, guarda. Sai quanto ne trovi in giro? Ne trovi parecchi, cazzo, con la fame. Quindi, figurati tu. Domani la prima cosa che faccio, metto questa modifica su questo DAS. E poi ti spiegherò cosa ho fatto, anzi faccio un po' di foto, te le faccio vedere. E vediamo un pochino questo cliente che ho, mamma mia, poco rompicoglioni. Però in effetti è vero, a dire tutti che la Sony faceva cose buone, va, lasciamo perdere, questo apparecchio costava... Parlate bene della Sony. Mi sembra 2.300.000, 2.400.000. Ti ho vinto. Della serie S, la serie killer della Sony. Sono pazzi. Signore, serie di fascia alta. 5 watt, io. Che c'hai? La... Parlando. Legno, capito? Cioè roba a livelli alti, a livelli professional, perché lo passavano buono come il 1000, che costava quasi il doppio, però per la serie S non so cosa, con i gold eccetera eccetera, cioè fa in audio, e invece un cazzo. Dopo qualche anno i condensatori che si scaricano, un condensatore che ha fatto un danno incredibile sulla scheda di alimentazione, problemi di timing e problemi di frizione e problemi di commutazione e problemi sui 41,5 e bibibibà. Morale della favola, questo dovrebbe essere l'ultimo passo, l'ultima modifica per questo apparecchio. Io domani devo vedere che se entra il avvolgimento automatico si ferma e trova subito i 41, così una volta che faccio questo ci rimetto lì, ti lo chiamo, come si libera la cosa, mi porto tutti i suoi apparecchi e me ne torno con i soldi, speriamo. Vabbè, chiama la Sony, cosa vuoi ti dica? Magari loro ti danno una mano, non so, ti danno uno schema, ti danno qualche cosa, non è che subito devi incolpare la Sony a un certo punto. Se hai difficoltà, chiami la Sony e ti fai aiutare, non costa niente, lì ti picchia, non è che se sei questo granché di cosa, no? No, Antonio, non hai capito, mi sono informato. Tutti quelli che hanno il 57S, che hanno avuto il 57S, l'hanno buttato, perché l'unica meccanica che è rimasta viva senza problemi di timing di quella serie lì è il 1000, che è una meccanica sempre diagonale, rovesciata, però fatta con un timing diverso e con le frizioni diverse. Adesso, siccome di timing non si trova la cinghia, siccome di frizione non si trova nulla, mi sono dovuto arrangiare con i pezzi della V5000 per riuscire a rifargli le frizioni corrette, avere col controllo dinamometrico come reagiva la velocità diversa, controllo di tutte le tensioni e la frequenza di timing. Succede che il motore è stanco, cioè il motore praticamente, anche se non ha lavorato tanto, sta assorbendo più di quello che deve assorbire. A un certo punto, quando si muove il timing, ne viene fuori un assorbimento più alto di 5 volt e la tensione scende per qualche frazione di secondo, e guarda che mi ha fregato 100 volte, scende praticamente sotto i 4 volte e mezzo. Quando arriva sotto i 4 volte e mezzo, il processore si resetta, quello che stava facendo smette di farlo, torna a zero, apre, chiude il cassetto e buonanotte a tutti. Pronto? Tu non puoi chiamare il cazzo, scusa, i 100 Sony? A me ti la mano, scusa, magari ci avevano un altro processore differente, trovano un uovo, glielo piazza e va a far cuffia. No, Antone, l'hanno buttato, dicono che non si può riparare, dicono che la pellicola è obsoleto, non si trova nei ricambi, hanno ragione perché non si trova il motore di timing, ma io un apparecchio così, che tra l'altro c'è poche ore di lavoro e che è l'unica possibilità di sentire a qualità di casa discografica dentro casa tua qualsiasi cosa, capito? Cioè la qualità che ha il DAS non ce l'ha il CD, non ce l'ha neanche il vinile, perché è lo standard di casa discografica in pratica. fai così non glielo faccio buttare a questo mio cliente, questo gli ho messo a posto valvo, gli ho messo a posto giradischi, Torrens, Ariston, cosa gli ho messo a posto, gli ho messo a posto tutta la serie Tascam che c'ha, le piccole della Teach, gli ho messo a posto una camici Dragon, cioè gli ho messo a posto il CD Melos che ha un pre-out valvolare, il CD a valvole, una figata, e devo vedere che ha fatto pure questo. Tutti l'hanno buttato, questo mio cliente dirà a tutti che lui il lecce ce l'ha ancora, a questo devo arrivare. Ho capito, vabbè, se uno c'è un problema si riferisce alla ditta dove è stato costruito eccetera eccetera, magari chiedo l'aiuto, tutto lì, era per quello che te l'ho detto. Vabbè, se non riesce a cavare, vabbè, adesso è un periodo che li cambi, la verità manca la stazza lì, perché non c'è niente, la GBC, non la Fusano, è Melchiore, quindi questi non la ciappini, a meno che non vai su internet. Sì, ma io ho beccato il problemino e adesso adesso ti mando le foto di questa modifica che ho fatto. Praticamente dove ci passa più o meno un ampere di 5 volt faccio in modo che ce ne passino 3, in maniera tale quando va su diventa questo motore non scenda sotto i 5 volt, capito? Giusto questo si poteva fare. E niente, ma per darti l'idea, per queste cose qua non c'è nessuno che ne ripara, non c'è nessuno. Quando gli ho riparato il lettore CD, lui è rimasto scioccato, diceva l'ho spedito a Milano, l'ho spedito a Milano, a Roma, l'ho spedito a Napoli, l'ho spedito anche a Palermo, da professionista, non so cosa, e niente, non me l'hanno riparato. Sapete che io questo avevo conosciuto, perché su Facebook aveva messo la foto del CD e avevo detto, c'è qualcuno in questo mondo che può ripararmelo? Vabbè, morale, domani forse questo incubo finisce. Vabbè, ti chiamo domani verso le 11, dai, ci vediamo magari. Mi sono anche invece la birretta. Vabbè, parato ti sei. Guarda, sono andato a pisciare. Allora, fino a quando non ho finito di fare la pipì. Stavo arrivando, è stato un casino come Falcone, figurati tu. Cosa lo puoi dire io? Mica non sono Paolo Miccolis. Mi sono bevuto un'altra di birra, me l'ho pisciata tutta, quindi figurati tu. Vabbè, da 50... quello è 50 celle, quello di ieri sera. Comunque c'ho una birra di cose, in chi ne usa per domani, quando passi. Bevi quella bella fresca dal frigo. Già è cosa allora? Io mi stavo chiedendo infatti domani dove potevo comprarla, domani sono aperti i negozi, sì. E aperta la Kobe che devo sfino, ma sono aperti tutti. Addirittura oggi ha aperto anche il bar. Stava facendo pulizie, tutte senza mascherina, senza nulla, pigliato Baba Giardo, quella che lavora lì, sia una sia l'altra. Io tu, senza guardia e senza nulla. E non è molto prudente, perché ancora ci sono queste condizioni. E vabbè, dai, sai che tu ti fai l'ultima mattina, se ne vai a letto. Io vado a casa, mi sta fare questo QTH e vado di là. E comunque anche la mattina io sono in ascolto sul 10, sembra che ormai il canale 10 sia quello ufficiale. Ah, tra l'altro, quando finisco questo cacchio di DAS, perché ti ho detto di questo DAS? Quando finisco il DAS voglio mettere a posto lo smitter di questo tornado omologato. Ho trovato lo smitter, sistemato. Io adesso l'unica cosa che c'è da farmi è quello del 2009, che boh. Non ho capito perché si è scesa la licenza alla metà. Sì, evidentemente c'è qualche falso contatto, non lo so, allora è un secondo tempo che è abbandonato in camera, che l'ho usato, eccetera, eccetera, quindi lo voglio sistemare, lo voglio, perché è un peccato lasciarlo così. Io mi lascio la maschina del 2009, figurati. Antone, bisogna rifargli il cap, bisogna cambiargli i condensatori che sono tutti gli elettrolitici, bisogna cambiarglieli, è un lavoro un po' seccante, ma se vuoi, tanto la spesa di condensatori praticamente non ce n'è, con qualche euro si recuperano tutti, se vuoi me lo metto io come finisco il mio a banco libero e ti cambio tutti i condensatori uno per uno, quelli elettrolitici. E poi l'altra cosa da guardare sul 3006, 3009, Superstar, tutti quelli che hanno la scheda ETP6, no? L'altra cosa da guardare come al solito la bobina L1, perché L1 da rompere le balle, L1 addirittura la misura sembra buona, bisognerebbe cambiarla. E poi se tu non hai altri apparati che hanno questa scheda, facciamo subito un confronto ottico con la tua e capiamo subito dove andare a sbattere. No, ci devo anche preoccupare. Perché nel caso possiamo confrontarlo col mio, vedere com'è col mio per alcune cose, e dopodiché se c'è un'altra scheda le bottine si tolgono dall'altra scheda e si riparano, che è anche una cazzata, mi c'ho anche l'oscilloscopio qua e un attimino si può mettere due punti, devi vedere che la forma onda sia quella, ci sono tutti gli schemi e la taglia della ferratura sono 3 minuti di orologio. Non c'è bisogno dello oscilloscopio, c'è le fasce contate che ho letto, quindi no, non ti preoccupare. L'installatura è con lo stagno di quello capito cinese, quindi a un certo punto è stacco tutto l'installatura dello stagno cinese e si rifà lo nuovo con lo stagno come si deve, si scosta è quello. Con periodo non c'è lo stagno lì, ci ho fatto il salto di così, l'ho provato. Dopodiché ha abbandonato tutto, hai capito? Ma peccato c'è una parte, non è che sia una cosa che mi serve adesso, hai capito? È una baracchina da fare con calma più che altro. Tieni la baracchina, non è che mi manca la baracchina, lo sai. Quindi tutto là. Adesso l'unica cosa è trovare una capsula decente per quel cazzo che mi hanno dato, perché non lo posso fare in quelle condizioni io, con una capsula c'ho 50 ohm e sembra cazzo un altoparlante di portate di quelli che vendevano una volta da Lupi, e fa schifo che non c'è né le Cine M5 sto cazzo di baracchino. Voglio trovare lo schema elettrico da fargli la modifica in modo che esca come si deve, con una capsula condensatore vera e propria, e va fatto, perché l'alimentatore ce l'ha 9 volte, quindi ci deve essere qualche modifica, si deve fare per forza. Purtroppo non lo danno perché non c'è in questo baracchino qua, quindi mi sa che la busco da qualche parte, adesso vediamo un po'. Marco, lui che ti ho procurato quello che mi avevi chiesto tu, quell'altro parlantino a tipo walkie-talkie. Ma sentato non va bene, capito? Devo buscare una capsula giusta per sbaglio e adattargliela, per forza di cose, grazie. Cazzo, del MB40 usciva molto meglio di quello, mi. Non c'erano quindi questi problemi nel MB40, ci mubico. Questi li hanno fatti così e non venuta la vaga. Adesso, se io li attacco per dire il microfono dell'Inter, che l'FM500S o il 546X, non uscirà proprio per niente, perché già me lo immagino, ci vuole un microfono amplificato che ci abbia un bel di potenza, però la modulazione c'è una fine, hai capito? Perché ci manca il coso, ci vuole lo schema dell'RC. Avendo lo schema dell'RC posso modificare il transistor, hai capito? Il discorso è quello, perché le cose non ce n'è, è stata programmata non solo sul processore, cosa cavolo è so io. Magari il controllo, non so, sarà la frontalina, già si capisce come funziona. Ce ne vorrebbe uno già smontato, cioè si può buttare da tenere sul banco, così a collegargli tutto, a vedere un attimino lo schema, dove passano alcune cose, dove entra, dove esce, magari a cambiare un operazionale, dopo metterci il corrispondente per un down, come faccio io con i CT-CAPIT. L'operazionale è uguale, apparentemente è uguale, i collegamenti sono uguali, però ha una resa diversa, ha una timbrica diversa, è più pulito, è più dettagliato, è più forte, è più alto. Al limite si può provare così, però io ti consiglio di provare questo cattivo altoparlantino, a vedere come esce. Tanto su due fili, li salti, ci parli sopra, chiedi il controllo, ti ascolti con un'altra radio e te lo stacchi. E a voi capo un microfono, lo dico io. Perché qua, fa quella fine il microfono io adesso te lo dico io. Io ho aventato l'MBP4, l'M93, eppure non amplifica un cazzo. C'è qualcosa di strano, no? O c'è qualche resistenza da togliere e cambiarla senz'altro? Dopo il... c'è il trasformatore che sono uguali agli altri, il KIA è preciso, poi c'è un transistor dopo quello lì, senz'altro c'è qualche resistenza che frena questa roba qua, il discorso è quello lì. Solo che se non c'ho schema elettrico non posso toccarlo, se non cazzapiglio mi bucio in baracchina, capito? Quello mi dà fastidio. Cioè avrei speso 89 euro per cosa? Per niente. Per una cazzata, il discorso è quello lì. Infatti la voglio lasciare così com'è, va a far culo. Non voglio neanche toccarlo adesso. Rimane così com'è. Poi si vedrà, non lo so. Se riesco a trovare la modifica, gliela faccio. Se la prende in culo. E vabbè, troveremo una soluzione, ne sono certo. Cosa volevo dire? Io mi sa addirittura che come arriva quell'apparato lì, che deve portare il coso, uso quello, metto quello e ciao, intanto. Cioè, siamo 7 su 10, a quello c'è quel microfono amplificato, questo è il 600. E via, cioè non c'è molto da fare, no? Anche se vado a portare i camper eccetera, li attacco sotto un cattivo di porta documenti, un coso di plastica, ci tengo dentro la licenza, la copia della licenza, e il versamento è 12 euro, lascio lì, mi sposto un'antenna, me la metto a terrazzino con un maschio e una femmina, la devo portare via, svizzo il PL e me la metto sul camper e ciao, capito? Qui ce l'ho da una parte e dall'altra, tanto siamo 7 su 3 canali, non c'è bisogno di avere 500 canali, no? E appunto per quello, quindi, a un certo punto. E va bene, allora dai, ti chiamo domani mattina, incrocio le dita e spero di aver risolto questo cazzo di dato. Così almeno mi sento libero da questo impegno che ne ho i coglioni pieni, capito? Gli ho dovuto fare di tutto, gli ho dovuto rifare di tutto. E ogni volta devo rimettere le viti nella bustina e riappoggiarlo perché ho fatto una cosa, va meglio di qua, va meglio di là, questo adesso funziona, l'altro funziona, però non è chiuso, non è posso più, domani mattina lo chiudo e poi magari ci vediamo. Buonanotte Antonio. Io, d'accordo, a domani. Non c'è problema.